Ok, perfetto. E dunque, spieghiamo un po' anche per chi non sa nulla cosa succede questo 14, appunto sulle contestazioni attraverso il confine, gli attraversamenti del confine e tutti quelli che sono i progetti in animo. Allora, l'idea di costruire una grossa mobilitazione il 14 luglio a Ventimiglia nasce dall'esigenza di creare una grossa tappa importante dopo un percorso, quello di progetto 20K, che dura ormai da 3 anni. L'idea è quella appunto di costruire in maniera più trasversale possibile, più includente possibile, una grossa manifestazione il 14 luglio, che partirà nel primo pomeriggio, per rivendicare un permesso di soggiorno europeo, la libertà di movimento per tutti e tutte e contro la violenza di genere in maniera trasversale, ma soprattutto all'interno della questione migratoria, quindi donne vittime di tratta e quant'altro. Inoltre noi abbiamo lanciato lunedì in conferenza stampa una giornata, il 13, venerdì 13, alle 2 del pomeriggio, un border crossing in frontiera bassa, dove tenteremo di passare il confine con appunto il permesso di soggiorno europeo, che è la nostra rivendicazione più ampia. Quindi l'idea di creare queste due giornate di mobilitazione, allargando il livello di contraddizione a tutta l'Unione Europea, andando oltre gli Stati Nazione, e quindi sì, criticare la Bossi-Fini, sì, criticare il decreto Minniti-Orlando, sì, criticare Salvini, sì, criticare Macron, ma cercare di allargare e avere una prospettiva europea. Sì. un po' questo. Sì, no, sì, ricordiamo appunto che il progetto 20K porta avanti queste battaglie ormai da anni in questo senso, e sicuramente rientra anche un po' in quello che è il periodo, diciamo, del nostro paese in questo momento, ma anche del paese confinante, che è la Francia, insomma, dalla situazione dello sbarco vietato di Salvini in poi, diciamo che comunque il tema dei migranti negli ultimi mesi è tornato, se mai se ne fosse andato, diciamo, a essere certo, centrale nell'opinione pubblica, no? E forse no. Questo. Dimmi. No, ma infatti, cioè, nel senso, l'idea è proprio quella, no con Salvini, no con Macron. L'idea è proprio di ottenere un permesso di soggiorno europeo che non sia solo per il cittadino italiano bianco, maschio, transfrontaliero che va a lavorare in Francia, ma appunto che sia veramente trasversale, in modo che alle persone sia garantita la possibilità di muoversi e di restare. Quindi solo questo volevo dire. Certo, e questo giustamente è un supporto al di là di tutti i confini, poi anche, insomma, per uno dei posti, Ventimiglia, un po' come forse anche Lampedusa nel nostro paese, che in questi anni più hanno vissuto sulla propria pelle la questione dei migranti, si sono resi conto della realtà delle cose, e cioè da dove sta veramente la responsabilità di tanta sofferenza e di questa situazione. E sicuramente è una città come può essere Lampedusa, anche posti sensibilizzati, ma che sentono anche moltissimo l'assenza dello Stato da questo punto di vista. Sì, no, infatti noi abbiamo scelto Ventimiglia oltre perché è il territorio dove il progetto 20K è attivo, ma anche perché Ventimiglia, come anche Lampedusa, sono luoghi simbolo della questione migratoria. Vediamo a Ventimiglia il fallimento delle politiche istituzionali, quindi proprio l'assenza di un progetto a lungo periodo, appunto, organizzato dallo Stato. Infatti a Ventimiglia c'è un campo Croce Rossa gestito appunto dalla Croce Rossa e quindi dal Ministro degli Interni, che è un ibrido a livello giuridico, quindi già questo crea non poche difficoltà. In più è un luogo dove l'autodeterminazione delle persone in viaggio non viene considerata, e tutto questo poi con i vari sgomberi che ogni mese, ogni qualche 2-3 mesi avvengono dei campi informali, si crea, no, l'istituzione crea appunto un livello di tensione anche nei confronti della cittadinanza che è totalmente insensato e fittizio, no? Quindi assolutamente l'assenza e la non capacità delle istituzioni di leggere quello che è una pratica sempre esistita per l'uomo e per la donna fa sì che poi questi territori di confine subiscano maggiormente quello che abbiamo cercato di sottolineare anche noi dopo le critiche del sindaco PD Ioculano di Ventimiglia, che oltretutto era a fianco e d'accordo con il governo della regione Toti di tutt'altro segno politico, ma noi sottolineavamo costantemente che la manifestazione, ed è quello che vuole essere il suo intento, come abbiamo detto, trasversale, allargata, comunicativa, partecipata, non solo per la soggettività migrante a Ventimiglia e per tutti i solidali e tutte le solidali, ma anche un'opportunità per la cittadinanza di Ventimiglia di poter finalmente riconoscere quali sono i veri problemi, quindi non più un processo politico sulle paure come quello di Ioculano, di Salvini o di Toti, ma un processo politico sull'analisi del fenomeno, l'analisi di come stanno le cose e la conoscenza con queste persone in modo da garantire degli strumenti e quindi l'autodeterminazione. Quindi assolutamente sì, andare a scovare qual è il fronte solidale a Ventimiglia che esiste fa sì di creare discorso politico e capire che i regolamenti europei, i regolamenti nazionali sull'immigrazione sono totalmente insensati. Perfetto, allora noi ti ringraziamo e ricordiamo ancora una volta la data, che è sabato 14 luglio da Ventimiglia, ma ancora prima il 13 ci sarà appunto l'iniziativa del Border Crossing, a cui auguriamo tutti quanti una buona fortuna e una buona lotta, e ci risentiamo presto. Grazie a voi tutti e tutte, a presto.